Insieme a me io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Canterò 3000 volte la stessa canzone, ti insegnerò a brillare in mezzo alle persone. Voglio diventare il tuo cartone preferito, arrivato fino a qui perché Dio mi ha favorito. Spero che potrai amarmi se mi sto distruggendo, fermarmi, perdonarmi, non farò gli stessi sbagli. E quando tu potrai fare a meno di me, sono io che non potrò più fare a meno di te. Viaggi insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Viaggi insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò. E quando tu potrai fare a meno di me, sono io che non potrò più fare a meno di te. Ti dirò di rispettare ogni donna ed ogni uomo, salirai sulle mie spalle come un gigante buono. E quando tu potrai fare a meno di me, sono io che non potrò più fare a meno di te. Io ti porterò dove non sei stato mai e ti mostrerò le meraviglie del mondo. E quando arriverai il momento in cui andrai, tu guiderai, tu lo insegnerai ad un altro come te. Quando tu potrai fare a meno di me, sono io che non potrò più fare a meno di te.